Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, cominciamo a poter mettere il naso fuori di casa, ancora nelle nostre regioni che spesso racchiudono tesori sconosciuti e inestimabili, tantissime le possibilità di scoperte, il sommario. Questa settimana partiamo dal Veneto, dove andiamo a curiosare a Montagnana. Poi ci spostiamo in Piemonte, regione dove ci affacciamo spesso, questa volta per andare a passeggio tra i vicoli di Guarene, e poi parleremo di un indice di sicurezza. Montagnana si trova in provincia di Padova, bandiera arancione, tra i borghi più belli d'Italia. Se avete tempo e voglia, scorrete qualche immagine, resterete colpiti dall'imponenza, dalla linearità, da come il tempo sembra non scorrere qui. Montagnana è la scelta della settimana della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Questa settimana siamo in Veneto. Sì, perché mi sembra che non ci fossimo ancora andate e perché andiamo in un posto secondo me bellissimo che io scommetto che pochissima gente conosce, e andiamo per la precisione a Montagnana. Io alzo subito la mano perché in realtà non la conoscevo, e nel momento in cui tu me l'hai proposta sono andata a vedermi un po' di immagini online e devo dire che la prima cosa che ho pensato è stata: sembra finto e sì, sembra un modellino Lego o Playmobil. È verissimo, l'impressione è che sembri finta, che sembra un commento negativo, invece in questo caso è un commento positivo, e sembra effettivamente un Lego, perché la cosa che colpisce di più è che è un'architettura militare, secondo me tra le più belle e meglio conservate di tutta Italia. Io ho un po' la passione, lo sai, per l'architettura militare medievale italiana e anche non italiana, perché mi sembra sempre che riesca a raccontare, al di là dell'aspetto meramente estetico, anche un po' di storia, di politica, di quello che era realmente successo. Ma il caso di Montagnana è un caso veramente particolare, perché è una città murata e perché è un insieme di fortificazioni veramente spettacolare. Ha una storia, come spesso le nostre città, piuttosto antica, nel senso che le prime fortificazioni, di cui non resta in sostanza traccia, che erano un po' delle cose aggiustaticce, risalgono all'anno 1000, perché Montagnana doveva difendersi dalle scorrerie degli Ungari e quindi già aveva una vocazione alla difesa. In realtà però è nella metà del 300 che la cinta muraria che vediamo adesso, che è questa meraviglia che anche tu hai avuto modo di apprezzare, inizia a essere pensata e viene realizzata nella sua versione definitiva, che ancora oggi possiamo vedere e visitare. Perché la costruiscono nella metà del 300? Per una motivazione apparentemente militare, di protezione militare. ma soprattutto, ed è lì il bello secondo me di studiare l'architettura militare medievale, per una motivazione propriamente politica. Allora, in questa zona c'era questa famiglia molto famosa che erano i Carraresi, che erano i signori di Padova e di tutta la zona circostante, i quali avevano un po' il dente avvelenato e non andavano per niente d'accordo con i potentissimi della Scala, che erano invece i signori del Veneto e che erano proprio vicinissimi e scomodissimi da avere come vicini di casa. Quindi a un certo punto i Carraresi, che erano nella zona già a partire dal X secolo, perché arrivavano dal nord e si erano insediati, entrano a far parte a pieno titolo delle lotte di potere che in epoca comunale contrappongono i diversi comuni del Veneto e in particolar modo i territori ricollegabili a Padova e a Verona. Quindi a Montagnana questi potentissimi Carraresi decidono di rafforzare le difese della città e siccome oltre che famosi erano pure ricchi, decidono di fare i lavori in grande, insomma. Quindi ampliano la parte murata che era preesistente, come dicevamo, completano la protezione della città e danno vita a questa fortificazione che è una cosa oltre che spettacolare, gigantesca, perché è una specie di rettangolone di 600 metri per 300, Valeria. Ma infatti si nota dalle immagini che è veramente molto imponente, anche se poi devo dirti, Livia, che questa imponenza in realtà non disturba, non è un'imponenza che in qualche modo è invadente. Vero, anch'io trovo, è piacevole, è militare senza avere quest'aria troppo rigida, non trovi? Certo, è molto grande questa fortificazione perché i muri sono alti 8 metri, arrivano a essere 8 metri, in più è costellata, tutta il perimetro è costellato di torri perché i Carraresi, proprio per renderla imprendibile, hanno fatto costruire 24 torri che controllassero l'intorno e in più a ulteriore rafforzamento della sicurezza ci hanno fatto intorno un vallone che arriva a essere 40 metri, insomma era diventata una città assolutamente imprendibile, anche perché dal punto di vista militare la scelta strategica che i Carraresi avevano fatto era lasciare solo due porte di accesso che sono in realtà da visitare, sono visitabili, sono dei veri e propri castelli, è il castello di San Zeno e la Rocca degli Alberi, e sono delle costruzioni che hanno vita a sé e che hanno delle caratteristiche militari pazzesche perché hanno delle mura, hanno dei ponti levatoi, hanno insomma un sistema di fortificazione assolutamente pazzesco. Tieni conto che l'impressione che tu hai colto di questa cinta molto imponente che adesso noi vediamo immersa nel tessuto di Montagnana, perché ovviamente la città si è espansa fuori le mura, immaginati l'impressione che poteva dare all'epoca quando Montagnana era un paesino perso nel nulla della campagna veneta. Questa sensazione si conserva ancora perché è possibile fare a piedi la circonvallazione delle mura e quindi percorrere man mano il perimetro e avere questa sensazione di contestuale grandezza e quotidianità, anche perché una parte del vallo che circonda le mura è ancora oggi allagato, quindi lo si vede nella sua versione un po' com'era in sostanza. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black old sun, won't you come, won't you come? Non si esaurisce tutto qui, perché c'è anche dell'altro. C'è dell'altro, è una cittadina insospettabile, nel senso che nel momento in cui varchi le mura, una delle mura, entri nel tessuto urbano, cambia il mondo. Se prima avevi avuto esternamente questa sensazione comunque di potere, perché lo scopo delle cinte murarie era quello di rendere sicure le città, ma anche di far sì che le città all'interno vivessero una vita autonoma, una vita propria, stabilissero i propri ritmi, il proprio modo di essere e il proprio modo di far vivere i propri cittadini. Nel momento in cui varchi la porta hai proprio questa impressione, perché di colpo ti trovi in una città che è perfettamente rinascimentale, ha un'atmosfera di bellezza, di eleganza, è piena di stradine, di piazze, di palazzi che sono curatissimi. Quindi l'aspetto militare sparisce e rimane l'aspetto della ricerca della bellezza, della leggerezza che è tipica del Rinascimento. E poi c'è una cosa meravigliosa di cui io sono assolutamente innamorata, cioè appena fuori le mura Montagnana riserva un'altra sorpresa, che è Villa Pisani. È una villa che fa parte del patrimonio UNESCO delle ville venete, è stata progettata e costruita da Palladio ed è la sorella sconosciuta della più famosa Villa Pisani di Stra. Sarà anche la sorella sconosciuta, Valeria, però secondo me è meravigliosa, è davvero un gioiello dell'architettura veneta. È stata commissionata da questo signor Francesco Pisani, che era di una famiglia ricchissima nella metà del Cinquecento, a Palladio. E Palladio con questa villa ha sperimentato, nel senso che ha costruito un modello di villa che fino a quel momento non aveva fatto, nel senso che è una villa di campagna e ha la particolarità di essere costruita su due piani, quindi di permettere ai padroni di casa, ai signori Pisani, di avere contemporaneamente un'attività al piano terreno e quindi incontrare i tavoli, svolgere le attività lavorative e avere una residenza al piano superiore, cosa che nel Cinquecento non era frequente e per Palladio non era mai stato realizzato. No one knows, has the face, lies the snake in the sun in my disgrace. In più non ha fatto delle dipendenze rustiche, cosa che di solito nelle ville di campagna si faceva, quindi ha costruito questa villa come pura bellezza a sé, con un giardino meraviglioso intorno, non enorme ma molto bello. E poi si è sfogato nel progettare una villa secondo i suoi canoni architettonici di bellezza, perfettamente simmetrica sia all'interno che all'esterno, con un doppio ordine di semicolonne, con due loggiati, con un timpano, con un fregio, insomma ha dato vita a una rappresentazione fisica in piccolo di quello che era il suo modello di architettura di villa e di bellezza. Ha delle caratteristiche particolarissime Villa Pisani, Valeria, e si potrebbe andare avanti per ore, io poi chiamo Palladio, potrei andare avanti per ore a descrivere le caratteristiche architettoniche, i rapporti dimensionali, tutto quello che fa parte della progettualità palladiana. Ma non serve a nulla, nel senso che la grandezza di Palladio, che in questo caso è evidente, è tale per cui anche se tu non conosci le regole palladiane, anche se tu non sai nulla dell'architettura, anche se non sai nemmeno che cosa sia una villa veneta, arrivi davanti a Villa Pisani e rimani senza fiato. Perché non so come dire, è come se attraverso questa architettura coltissima, molto studiata, molto, molto misurata, molto calcolata, in realtà il progettista, l'architetto Palladio riuscisse a farti scatenare un'emozione che è quella di un mondo perfetto. Cioè le ville palladiane secondo me si fanno guardare e ti danno l'impressione di essere in una dimensione in cui non ti può succedere niente di male, in cui tutto funziona, in cui tutto è equilibrato. E per apprezzare questa cosa non serve conoscere la storia dell'architettura, si va lì, ci si mette davanti e ci si fa incantare. Per cui Villa Pisani non fa eccezione, basta guardarla e ce ne si innamora. In sostanza montagnana, piccolina, sconosciuta, però veramente un gioiello da visitare. Livia, mentre parlavi all'inizio, mentre quindi ci raccontavi dell'architettura militare medievale, mi è venuto in mente un libro che parla, diciamo così, di architettura, in realtà poi parla della storia di quest'uomo che viene affascinato dall'architettura militare, che è Austerlitz di Sebald, che è un libro bellissimo, forse un po' ostico all'inizio, ma che veramente merita, perché attraverso l'architettura poi ci racconta la storia di un uomo. Sì, potrebbe essere una lettura indicata per la gita che faremo appena potremo farla a Montagnana. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Globetrotter 24. You don't have to sit back and relax. You can actually try changing Ci spostiamo di poco, restiamo nel nord Italia. In Piemonte sono moltissimi piccoli borghi disseminati nel paesaggio delle Langhe, Roero e Monferrato. Tra questi un altro borgo bandiera arancione del Touring Club italiano, che ha fatto del buon vivere e della sostenibilità un'altra bandiera altrettanto importante. Ed è su questo che punta anche per l'estate che sta arrivando. Il borgo è quello di Guarene e ce lo racconta l'assessore al turismo Claudio Battaglino. Guarene è un paese in provincia di Cuneo, a due passi da Alba, da cui è separato dalla vallata del fiume Tanaro. E il borgo storico è appoggiato su una collina dominata da un castello settecentesco e si trova in una posizione privilegiata. Abbiamo una vista incantevole sulle colline di Langhe e Roero, che i cui paesaggi vitivinicoli sono riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel nostro borgo, tra i viottoli tortuosi, lastricati di pietra, si può trovare una passeggiata chiamata Paramuro, che è stata definita la Nervi del Roero, edificata su una parte delle antiche mura che circondavano il paese, e da qui si può, è un balcone affacciato sullo scenario delle Langhe, con una vista che spazia dalle rocche di Barbaresco e Neive, sulle 100 torri di Alba, e con lo sfondo delle colline con i vigneti da cui nascono i vini tra i più conosciuti e pregiati d'Italia, il Barolo e il Barbaresco ad esempio. Sul versante nord-ovest della collina lo scenario rimane collinare, rimane rurale, ma domina invece tutto il Roero, con il castello di Santa Vittoria, complesso della Madonna dei Boschi di Vezza d'Alba, i vigneti dell'Arnaise, ed è tutto circondato con una vista praticamente completa sull'arco delle Alpi. È un piccolo grande paese, abbiamo 3.500 abitanti, ma da noi si può trovare dei picchi di eccellenza assoluta. Abbiamo il castello di Guarena, ad esempio, che domina la collina e che oggi ospita un relè 5 stelle lusso. L'osteria La Madernassa, che del giovanissimo chef Mammoliti, di cui siamo particolarmente orgogliosi, nel 2019 ha ricevuto la seconda stella Michelin e proprio all'inizio di maggio è stato indicato come uno dei 6 migliori ristoranti d'Italia secondo la We're Smart Green Guide, che è la guida che premia i ristoranti con le migliori proposte di cucina vegetale stagionale al mondo. È un paese di arte. Nel borgo storico si trova la Pinacoteca del Roero, che è una collezione di dipinti di pittori del Novecento piemontese, a partire dal nostro Lino Pasquero, guarenese doc, che nel 75 ha dato il via alla collezione. C'è la chiesa della Santissima Annunziata, con splendidi esempi di arte sacra, tra cui un originale pala d'altare del Moncalvo. Ma un altro gioiello è Palazzo Re Baudengo, che è una dimora storica settecentesca, sede del Museo di Arte Contemporanea della Fondazione Sandretto Re Baudengo, che organizza nel paese numerose mostre ed esposizioni, e ha inaugurato a settembre dello scorso anno, con un'opera dell'artista canadese Paul Neal, il punto panoramico sulla collina di San Licerio, confine con il comune di Castagnito. Si tratta di un museo a cielo aperto, È un esempio meraviglioso di arte pubblica, sempre aperta ai visitatori, da cui si gode di una vista impareggiabile su entrambi i lati della collina dominata dal castello. A settembre la fondazione aveva in programma una nuova installazione, vedremo se si potrà confermare o se dovremo pazientare un po' più a lungo. Vi state riorganizzando per l'estate? Avete previsto comunque manifestazioni, anche se giustamente rispettando tutte le dovute norme di sicurezza? Ma allora, nel 2020 avevamo pensato a un calendario veramente ricco di appuntamenti, con una mostra di arte contemporanea, ad esempio, che dovrà partire adesso a maggio, concerti, eventi enogastronomici di qualità. Certamente gli ultimi mesi ci hanno imposto di ripensare i nostri programmi. Davanti abbiamo una sfida, l'affrontiamo con grande ottimismo, con umiltà, ma anche con consapevolezza delle nostre caratteristiche, delle nostre unicità. Il nostro è un territorio ricco di biodiversità, siamo immersi nel verde. Si parla dell'estate dei borghi. Certo, chi sceglierà di venire da noi potrà trovare delle esperienze autentiche da godere in sicurezza, immergersi in arte, storia, cultura, fare attività all'aria aperta, godere di ottimo cibo e vini e ritrovare spazi e ritmi a misura d'uomo. Alcuni esempi di quello che si può fare. Su cui stiamo lavorando. Il nostro paese è attraversato, appunto, è inserito nel Roero, siamo attraversati da una rete di sentieri che uniscono diversi borghi, sono curati dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero, che mette a disposizione audioguide, tracciati GPS che si possono scaricare e consultare in autonomia per poter fare attività a piedi, in bicicletta, in assoluta indipendenza, slegati da date, eventi, nel tempo che ognuno potrà ricavare, su percorsi adatti a famiglie e altri più impegnativi. La nostra terra di contadini, di agricoltura di qualità, il prodotto tipico di Guarene per eccellenza è la pera madernassa coltivata nei frutteti, sulle nostre colline, nelle nostre vallate, un frutto dalla buccia spessa, dalla polpa croccante, molto particolare, che è stato riscoperto e valorizzato dai tanti chef della nostra zona, ideale per i diabetici ed è ottimo in una miriade di ricette. È terra di grandi vini, Roero Arnesi, il Nebbiolo, la Barbera, sono tutti prodotti che si possono vedere e toccare con mano, come sono coltivati, come sono lavorati, con degustazioni, visite guidate, laboratori presso i nostri produttori. Si tratta di attività che sono godibili in piccoli gruppi, assolutamente personalizzabili come esperienza. E si possono organizzare, abbiamo attivato un dialogo costante con i nostri operatori, con i nostri ristoratori, le nostre attività ricettive. Nel nostro paese abbiamo oltre 260 posti letto che sono distribuiti nell'intero territorio comunale e danno la possibilità di soddisfare ogni tipo di preferenza, si può soggiornare tra i palazzi e le chiese del centro storico oppure nelle strutture immerse nel verde nelle varie frazioni. E il personale è tutto competente e disponibile e sarà aiutato e supportato per dare ai turisti, permettere ai turisti di organizzare il proprio soggiorno nel rispetto di quelle che sarà il nuovo scenario con cui andremo a confrontarci. Sicuramente l'esperienza che si potrà fare qui da noi sarà di tranquillità, di cura di sé. Ecco, noi puntiamo tanto su quello. Fatto che viaggiare, almeno per i prossimi tempi, sarà più difficile e creerà anche qualche preoccupazione in più. Ecco perché due ragazzi torinesi, in collaborazione con colleghi francesi, hanno messo a punto un indice di sicurezza che trovate sul portale Generazione Viaggio. Uno di loro è Tiziano Salerno. Generazione Viaggio nasce come un portale per aiutare appunto i viaggiatori in quest'epoca del Covid, e quindi abbiamo voluto dare subito uno strumento che fosse veramente utile per la situazione. Abbiamo creato questo indice di sicurezza Covid. Generazione Viaggio appunto è un progetto che è stato creato tra una joint venture tra Architravel, che è il tour operator che rappresento, e degli esperti digitali del turismo francesi. Quindi ci siamo uniti per realizzare questo tool, ed è un tool praticamente che prende tutti i dati forniti ufficiali dagli istituti appunto che ne competono, e organizza appunto un indice di sicurezza, dando una valutazione ai paesi, classificandoli per proprio indice di sicurezza. Quindi avremo una classificazione, potremmo trovare i paesi classificati come A, che sono quelli più sicuri, paesi come B, che non sono tanto sicuri, C, D, E. E la cosa più interessante, che è la cosa più utile poi per i viaggiatori, è che abbiamo anche indicato lo stato delle frontiere, quindi se una frontiera è aperta o chiusa. Questo vuole essere uno strumento che aiuta appunto i viaggiatori in questa nuova epoca di viaggi Covid, perché dovremmo abituarci comunque a viaggiare in un primo momento tenendo sott'occhio appunto tutta la situazione dei dati dei vari paesi, ma appunto anche delle frontiere. Praticamente tu, se entri dentro nella pagina di informazioni sul coronavirus, tu vedi tutti i paesi e puoi filtrarli per numero di casi rimasti, numero di persone guarite, lo stato delle frontiere, e poi alla fine hai un indice di sicurezza viaggio, quindi una valutazione generale su quel paese a seconda appunto dei casi, tasso di mortalità e guarigione. Ovviamente diamo la possibilità anche di includere questo indice di sicurezza nel proprio sito tramite un widget, e si ha la possibilità anche di filtrare i vari paesi. Magari sono interessato solo all'Italia, posso guardare l'Italia, oppure voglio guardare solo magari un blog di viaggi europei e posso integrarmi l'indice di sicurezza solo per i viaggi europei. Quindi è uno strumento molto customizzabile che può essere utile appunto sia per i viaggiatori e appunto anche per tutte le figure del turismo, che possono essere sia delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici, alberghieri, eccetera, eccetera. Quindi è molto anche personalizzabile in base ai paesi che uno vuole monitorare. Avete previsto anche di mettere dentro informazioni, ad esempio, su quello che si può fare in quel paese attualmente? Ma quello per ora no, però il portale appunto di viaggio sta cercando di promuovere sempre l'evoluzione un po' del turismo, che secondo noi sarà un turismo ovviamente più nei confini italiani all'inizio, e quindi anche comunque un turismo magari più ecosostenibile, eco-naturalistico, quindi all'inizio magari si faranno più viaggi outdoor. E quindi comunque seguendo il portale si capirà anche, si faranno anche delle proposte di viaggi secondo la situazione che si presenterà. Per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.